like a dead end life, a circle of dead end life. Se siamo come la vita e la morte che si baciano, un po' io, un po' te, in un cerchio alchemico. Quando facciamo l'amore, lo facciamo forte. Non lo sanno che sono pazzo, pazzo di te. Pazzo di te quando non sei con me. Lo sanno che sono come mio padre, stessa testa dura come mia madre, stessa dolcezza. Tu già lo sai che mi scaldo in fretta. Voglio vino per festeggiarti. E fino ad allora non toccherò più un goccio. Berò la solitudine stringendo un cuscino crescendoti. Il crescendo di un affetto anche perdendoti. Voglio essere come Cupido colpendoti, perché ho perso sangue dalla mia solitudine amando te e il tuo sesso. Perché donna tu sei e hai sempre un asso nascosto. Donna, donna, donna, crescerai ancora il fiele del suo sesso. Non è vergogna, è amore che dai ad amore. Quando vero il sole, ore di sole fa divino, piovono tra noi, io divento lacrima di sangue. Siamo come la vita e la morte che si baciano, io un po' te, in un cerchio alchemico. Quando facciamo l'amore lo facciamo forte. Lo sanno che sono come mio padre, stessa testa dura come mia madre, stessa dolcezza. Tu lo sai che mi scaldo in fretta. Voglio vino per festeggiarti, barman. E fino ad allora non toccherò più un goccio. Però la solitudine stringendo un cuscino crescendoti. Il cerchio alchemico, vita e morte che fanno l'amore sempre. Vita e morte che fanno l'amore sempre. L'amore sempre. The circle of life.